12 dicembre, seconda parte. Allora, stabilito il quadro, spero di averlo stabilito sufficientemente, sin troppo ampio, direte voi, sin troppo, vabbè, accetto le critiche. Comunque, allora, all'interno di questo quadro possiamo riformulare la domanda. Scartiamo una versione troppo metafisica o ontologica o essenzialista della domanda che cos'è il linguaggio e riformuliamo la domanda che cos'è il linguaggio in modo, diciamo, evoluzionistico, funzionalistico, cioè a che cosa serve il linguaggio. È evidente, adesso vedremo subito, che appena tentiamo di rispondere a questa domanda, la domanda che cos'è il linguaggio si ripresenta, ma si ripresenta in forma nuova, nel senso che si ripresenta come, adesso vedremo come, a che cosa serve il linguaggio. E per rispondere a una domanda di questo tipo in senso evoluzionistico, però obiettivamente dobbiamo presupporre una cosa, cioè qualsiasi risposta noi diamo, siccome noi facciamo parte di una specie attualmente esistente su questo pianeta che si chiama Homo sapiens e che è una delle specie più giovani che ci siano, non conosciamo altre specie animali che abbiano così pochi anni come noi. 200.000 circa abbiamo, Homo sapiens ha circa 200.000 anni, però comunque ci siamo e possiamo dire obiettivamente, diciamo è incontestabile che la nostra specie ha avuto un certo successo evolutivo, certo non è non il successo evolutivo di specie che dura da tot milioni di anni. E alcuni studiosi, tra i quali Pennisi e La Falzone, in questo libro uscito da poco, sostengono effettivamente che non abbiamo neanche abbiamo ben poche chance di raggiungere una longevità così lunga, così grande come specie, nel senso che loro sostengono che l'essere umano sta per estinguersi come specie, l'essere umano, non il mondo, non la storia della vita sulla Terra. La specie Homo sapiens sta per estinguersi. E dicono loro, il titolo del libro è di quello, proprio a causa del linguaggio. Proprio è il linguaggio la vera ragione per la quale non abbiamo futuro come specie. Ma su questo parleremo dopo. Però per il momento, sic stantibus rebus, se le cose stanno come stanno adesso, possiamo dire la specie umana esiste, Homo sapiens esiste, ha avuto un certo successo evolutivo, per forza di cose il linguaggio, che è una tra le nostre caratteristiche distintive, è ciò che ci distingue, è uno strumento unico, non unico nel senso che abbia un'origine extrabiologica, ipotesi monistica, è chiaro che ha un'origine biologica, però comunque è uno strumento unico nel panorama delle specie animali di questo pianeta. E quindi se noi abbiamo avuto un certo successo evoluzionistico e se il linguaggio ci contraddistingue, cioè è una delle cose che ci segnano, che fanno parte della nostra definizione come specie animale particolare, bisognerà concludere che ha avuto un certo ruolo nel nostro successo evolutivo. È impossibile che il linguaggio non abbia avuto un ruolo nel nostro successo evolutivo. E allora questo semplice fatto però ci permette, se non di escludere delle risposte, perlomeno di escludere alcune formulazioni unilaterali del linguaggio in quanto tale. Allora, adesso farò un passo avanti, ma perché non ce la faccio sulla base di quello che ho detto sinora a giustificare completamente l'affermazione che faccio adesso, ma quindi questa vi prego di assumerla per il momento come un punto di vista mio, come una mia idiosincrasia, spero che verrà diciamo giustificata e corroborata mano a mano che andiamo avanti. Però diciamo sulla funzione del linguaggio credo si possano ipotizzare tre diverse e possibili risposte. Prima, la metto per prima perché è quella più diffusa. È quella più diffusa e io credo sia quella più sbagliata di tutte. E però è quella che sembra è quella comunque che ha avuto sinora maggiore, diciamo, successo. È quella che ci dice il linguaggio è uno strumento di comunicazione. Il linguaggio serve alla specie umana per comunicare efficacemente all'interno della specie, comunicazione intraspecifica. Non interspecifica. Nonostante ciò che noi possiamo pensare, cioè che i nostri cani e i nostri gatti domestici capiscono quello che noi diciamo, in realtà non capiscono affatto quello che noi diciamo, entro certi limiti il linguaggio certo che viene usato, noi lo usiamo anche per comunicare con loro, però è una comunicazione totalmente asimmetrica, cioè in realtà il cane e il gatto, come gli animali, se non mi riferisco, ricavano delle informazioni dal nostro linguaggio, ma non sono le stesse informazioni ovviamente che ricava un altro essere umano. Cioè, quando io dico al cane a cuccia, il cane capisce, cioè riesce a collegare più o meno, ma non capisce il significato del termine a cuccia come lo intendiamo noi. Cioè, è semplicemente una correlazione tra una certa produzione sonora e un comportamento da parte del cane che non implica una comprensione ovviamente linguistica. Allora, la comunicazione. Diciamo, il linguaggio è uno strumento di comunicazione intraspecifico, di comunicazione all'interno della specie, invece tra di noi serve, io sto usando il linguaggio in questo momento esattamente per comunicarvi qualche cosa, per passarvi le risposte. Seconda possibile risposta, il linguaggio è uno strumento di espressione, espressivo, il linguaggio esprime alcune caratteristiche, cioè esprime che cosa esprime? Questo è difficile. Diciamo, in prima battuta possiamo dire così, il linguaggio esprime alcuni o gran parte dei nostri contenuti mentali. Una ipotesi di questo tipo presuppone ovviamente che esistano dei contenuti mentali umani indipendenti dal linguaggio, non significa questo però che questi contenuti mentali possano essere chiamati pensiero. Anche questa seconda ipotesi, cioè che il linguaggio abbia funzioni prevalentemente espressive, implica o permette di dare due risposte diverse al tema dei rapporti linguaggio e pensiero. Entrambe queste risposte sono state date da studiosi diversi nel corso dell'Ottocento e del Novecento, cioè sin da quando l'uomo ha cominciato a riflettere. Cioè, secondo alcuni non esiste, non si dà un pensiero senza un linguaggio. È impossibile pensare per noi esseri umani in termini extralinguistici. Naturalmente tutto questo dipende da che cosa intendiamo per pensiero, perché pensiero, anche questo è un termine tutto sommato un po', ma se per pensiero intendiamo dei contenuti mentali più o meno logicamente organizzati e collegati gli uni con gli altri, può essere una tesi plausibile che non esista pensiero senza linguaggio. Però ci sono anche invece studiosi che sostengono l'esistenza di un pensiero prelinguistico. Per questi studiosi, per cui il linguaggio ha una funzione puramente espressiva, il linguaggio effettivamente serve solo per tradurre in maniera, per esprimere in maniera comprensibile agli altri esseri umani il nostro pensiero, che altrimenti esisterebbe ma non sarebbe comunicabile. Ciò che io penso, Grazia non lo capirebbe se non glielo dicessi. In questa ipotesi io penso, anche se non parlo, io penso indipendentemente dal pensiero. Sono due risposte diverse, non vi dirò neanche adesso per il momento qual è quella che io personalmente considero più plausibile. Voglio dirvi soltanto che considerare il linguaggio come un fenomeno prevalentemente o puramente o totalmente o prevalentemente espressivo non implica la sua identificazione con il pensiero, cioè all'interno di questa risposta si può pensare sia che il pensiero esista senza linguaggio, sia che non esista pensiero senza linguaggio. Possono dare due risposte diverse. Ma c'è una terza ipotesi sulla natura, sulla possibile natura del linguaggio, e cioè che il linguaggio sia, attenzione, vi sembrerà che sia riducibile ad una delle due precedenti, ma se ci fate bene attenzione vedrete che non è così. Si può pensare che il linguaggio sia uno strumento cognitivo, uno strumento per conoscere il mondo, una strategia, un dispositivo, chiamiamolo come volete, un meccanismo, uno strumento per conoscere il mondo. Quindi che il linguaggio sia cognizione. Attenzione, tutte e tre queste possibili risposte alla domanda a cosa serve il linguaggio, qual è la funzione del linguaggio, tutte e tre queste risposte identificano delle aree che non sono tipiche degli esseri umani, né la comunicazione, né l'espressione, né la cognizione sono tipiche degli esseri umani. Qualunque animale comunica, ha una comunicazione intraspecifica e anche interspecifica, qualunque animale esprime affetti, sentimenti, movimenti, moti del proprio corpo, della propria qualunque animale, perlomeno forse anche il lombrico, però insomma, cioè a qualsiasi livello ha degli stati mentali e ha dei modi di esprimerli, cioè di tradurli in qualche cosa tipo movimenti del corpo, se ha un viso, il lombrico diciamo non ce l'ha, ma una scimmia ce l'ha, un cane, un gatto ce l'ha, un leone ce l'ha, un rinoceronte ce l'ha, e quindi esprime magari meno mobile del nostro, anzi sicuramente meno mobile del nostro, ma può avere delle espressioni o delle posture, dei modi, quindi c'è una funzione espressiva degli animali. E c'è ovviamente una cognizione, tutti gli animali hanno una cognizione, conoscono il mondo, hanno delle strategie cognitive, sanno dove sta l'acqua, sanno quando piove che cosa bisogna fare o grosso modo quali effetti, anche in maniera confusa, insomma diversa, tutti gli animali hanno strategie cognitive. Hanno degli strumenti, se no sarebbero già estinti da un bel pezzo. Se ci fossero animali che non comunicano niente, non esprimono nulla e non conoscono nulla, sarebbero belli che morti, perché gli animali stupidi non sopravvivono sempre secondo la cosa diciamo darwiniana, intanto perché non hanno accesso al cibo, perché qualche altro di furbo di loro glielo frega, poi forse possono anche accoppiarsi tra loro, ma molto ovviamente la cosa avrebbe scarsi effetti, perché tutte le altre, cioè sarebbero prese di altri animali, quindi tutti gli animali. Quindi anche in queste tre domande, cioè no, non sono le funzioni che contraddistinguono l'essere umano, è solo questa roba qua, è è solo questa maledetta questo maledetto e complicato fenomeno chiamato linguaggio che contraddistingue l'uomo. Il linguaggio nessun altro animale ce l'ha, questo è fuori di dubbio, non esiste nessun altro animale che parla come noi. Allora, ricordate quello che vi ho detto la volta scorsa, non sulla definizione, come dire, ontologica, eccetera, ma su una descrizione del linguaggio. Il linguaggio è uno strumento di comunicazione, di espressione, di cognizione, non lo sappiamo ancora, ma uno strumento di qualche cosa che ha tre caratteristiche. Primo, si basa sul suono. È uno strumento sonoro. Sono dei suoni. Secondo, è uno strumento di rappresentazione. Che cosa vuol dire uno strumento di rappresentazione? È uno strumento che costruisce, adesso detto proprio in termini brutali, così un po' poco raffinati, raddoppia il mondo. Costruisce una rappresentazione sonora del mondo, costruisce una rappresentazione simbolica del mondo, costruisce un duplicato del mondo, no? Questo fa. Terzo, è basato a una architettura basata sulla doppia articolazione. Cosa vuol dire con la sua doppia articolazione? Abbiamo detto la volta scorsa, cioè che il linguaggio costruisce questa rappresentazione non a livello dei costituenti immediati del linguaggio, cioè dei suoni elementari che vengono emessi dall'apparato fonatorio umano, ma solo a livello delle catene di suoni elementari. I suoni elementari, detto in altri termini, sempre in soldoni, sempre in maniera selvaggia, i singoli suoni non hanno nessun significato, non significano nulla, non rappresentano nulla, non si può costruire una rappresentazione del mondo dicendo B, A, C, D, F, posso fare tutte le sequenze di suoni di questo tipo e non avrò rappresentato un bel nulla. Per poter rappresentare il mondo e per poter dire quest'anno Marta ha tagliato i capelli corti, devo mettere insieme queste Q, U, E, S, A, N, O, N, A, A, li metto insieme e costruisco una catena di questi suoni che raddoppia il mondo. È successo un fenomeno per cui fino all'anno scorso Marta aveva i capelli così, mo ce l'ha così, e io l'ho detto con una frase, l'ho rappresentato con una frase, ho raddoppiato quello che ha fatto Marta nella pratica, nella sua esperienza concreta, l'ho fatto diventare una frase. Anche qui, attenzione, molti altri animali, parecchi, molti, la gran parte dei mammiferi, praticamente tutti gli uccelli, anche qualche pesce forse, qualche anfibio, hanno dei sistemi di suoni che in qualche maniera hanno anche per loro una funzione rappresentativa, in maniera diversa da noi, ma c'è una funzione, ma invece qui no. Il terzo punto è tipico degli esseri umani. Nessun altro animale ha un sistema di rappresentazione sonoro basato sulla doppia articolazione. Quindi quello che distingue il linguaggio da da altri sistemi di comunicazione, di espressione, di cognizione, è la doppia articolazione. Naturalmente tutto questo si basa naturalmente sul fatto, quando dico sonoro, voi intendete sonoro e sapete dalla volta scorsa potete aggiungere discreto. Discreto, non c'è una continuità, sono dei suoni differenti, se non fossero differenti non li potrei combinare, non potrei sapere che cosa sono. Questa è la ragione per la quale qualunque uno, ora se il linguaggio è davvero questo, se non è possibile un linguaggio senza una doppia articolazione, voi capite che tutti gli usi che si fanno del termine linguaggio a proposito di fenomeni che non sono propriamente linguistici sono metafore interessanti, più o meno utili, più o meno belle, ma che non possiamo spingere troppo in là. Quando negli anni 60 e 70, in virtù dell'espansione del movimento hippie e dei movimenti controculturali, si cominciò a fare un gran parlare di linguaggio del corpo, ma già molti danzatori l'avevano fatto nelle precedenti. Linguaggio del corpo è una metafora. Dove sta il linguaggio del corpo? Dove sta il sistema discreto? Quando io muovo un braccio, c'ho dei limiti, certo, non posso toccarmi senza girare le mani e andare indietro, però a parte questi limiti qua, io faccio dei giorni, faccio le cose, dove cazzo stanno le lettere, i suoni, i fonemi dei miei, dove sta il linguaggio? Quando muovo una gamba, quando muovo il torso, quando faccio il danzatore, dove stanno i suoni, i fonemi della danza, gli equivalenti dei fonemi della danza, dove stanno? Ma sono segni specifici, faccio così e non è che faccio così, cioè nella mia percezione, se ho stabilito... È un raddoppiamento, è un adattamento del linguaggio naturale per le persone che non hanno, che per una serie di limiti strutturali non possono parlare, non possono sentire, ma possono vedere. Quindi, ma il linguaggio del corpo, il linguaggio del corpo, va bene, ma dove sta il linguaggio del corpo? Cioè, il corpo chiaramente esprime delle cose, chiaramente comunica delle cose, chiaramente è uno strumento cognitivo, non c'è alcun dubbio, ma non è un linguaggio in senso proprio, non ha nulla del linguaggio in senso proprio. Quando parlo di linguaggio pittorico o linguaggio dell'immagine, prego. Professore, voglio salutarla. Come stai? Grazie, tu scusate, non dovrei fare no, così. No, meglio, perché loro già gli fuma il cervello, quindi sono ben contenti di ogni pausa. Ciao Filippo, ciao. Linguaggio pittorico, il linguaggio dell'immagine. Questo quadro ha un linguaggio, dove sta il linguaggio delle immagini? Dove stanno i fonemi delle immagini? Dove stanno i minimi mattoncini, i minimi elementi non ulteriormente scomponibili dentro un'immagine? Un'immagine sono come i conseguimenti di Euclide, cioè sono scomponibili non c'è neanche l'atomo dell'immagine. Sì, cioè, certo, c'è la singola pennellata, insomma. Cioè, ma anche quando io prendo il pennello faccio un puntino sulla tela, in quel puntino c'è un casino di no? Ci sono, quindi dove sta? Non c'è. È una metafora, si può usare, io non sono contro il fatto che si usino le metafore, però dobbiamo essere coscienti che è una metafora e che dicendo linguaggio dell'immagine, linguaggio del corpo, linguaggio di qualunque cosa, noi in genere tagliamo fuori la roba fondamentale del linguaggio, cioè il suo carattere discreto e il suo carattere di doppia articolazione. Non esiste nessun altro sistema, né tra quelli che usa l'uomo, sì, tra quelli che usa l'uomo, sì, certo, l'uomo se ne ha inventati vari di dischi, per esempio, qual è un altro sistema discreto di immagini questa volta che usa l'uomo, però non c'è la doppia articolazione. Ne usa, non è che non ne usa. Gli ideogrammi sono una scrittura, però sì, più o meno. Le scritture sì, ma pensate a qualcosa che non c'entri con il suono, con il linguaggio, che non c'entri proprio con il linguaggio. Il binario. Il sistema binario. I segnali stradali. I segnali stradali. Letterari è un bel sistema discreto, sono un tot di segni specifici, cioè si può distinguere un triangolo da un cerchio. Allora tutta la segnaletica. Qualunque sistema di segnaletica, di cui la parola più nota è quella stradale, è un sistema discreto, ma non c'è la doppia articolazione, cioè non è un triangolo e un cerchio insieme significano c'è un pericolo più c'è qualcosa, ma non è un, come dire, significato nuovo. Mentre se io metto insieme A, M, O, faccio amo e dico, è un verbo, è la prima persona di un verbo che dice che io ho sono in una certa predisposizione da amo, quindi sono caratterizzato in quel momento dall'amore per qualcosa o più in generale. I segni stradali quindi sono discreti, non è l'unico sistema possibile, si può costruire un sistema discreto anche di immagini, però bisogna definire a priori quali sono le immagini che non sono più decomponibili in altre immagini. Cioè, prendere quello, il triangolo nella segnaletica stradale, non posso togliere un lato dal triangolo, il triangolo unico, cioè quello lì è un segno, quello è un costituente elementare. Gli animali, molti animali, quasi tutti, ripeto, hanno un sistema di comunicazione, di espressione, di cognizione sonoro e rappresentativo in qualche modo, ma non doppiamente articolato. La ragione, cioè, la grande superiorità dei sistemi doppiamente articolati su quelli non doppiamente articolati è che il numero dei significati, cioè degli stati di cose del mondo descrivibili con una sequenza di questi suoni è tendenzialmente infinito, è comunque molto molto maggiore che non se il sistema non fosse doppiamente articolato. I primati hanno a loro disposizione più o meno una ventina, trentina di suoni differenti e li usano. Ma per loro ogni suono significa una cosa specifica, il singolo suono, che probabilmente è analizzabile poi, loro non sono in grado di percepirlo e di analizzarlo come anche se poi di questo parleremo, perché ci sono sono state fatte delle prove, sono stati condotti degli esperimenti che dimostrano più o meno come sia, adesso di questo parleremo poi, insomma, di come il linguaggio umano sia in realtà radicato nella, come dire, biologia. Però adesso stavamo facendo. Torniamo alle tre possibili risposte sulle funzioni del linguaggio. Adesso, se noi pensiamo un attimo a queste tre possibili risposte, vediamo che in realtà la semplice considerazione, cioè il semplice fatto, fondamentale però, perlomeno per me, per le due premesse che vi ho fatto prima, quindi il solo fatto che il linguaggio deve essere considerato uno degli elementi fondamentali, se non l'elemento fondamentale che ha assicurato agli esseri umani, alla specie Homo sapiens, la sua capacità di sopravvivenza, la sua capacità di sviluppo, il suo successo evolutivo. Questo solo fatto ci basta per o escludere o rendere molto difficili e molto limitate due di queste tre risposte. Se è vero che il linguaggio deve essere considerato come uno degli elementi del successo evolutivo degli esseri umani, vuol dire che due di quelle tre risposte possibili sono o troppo limitate o zoppicano. Pensateci un po' e vedete se potete a occhio fare un'ipotesi di quali siano le due che zoppicano e quindi per esclusione di quale sia quella che rimane, quella che potrebbe rimanere. Troppo difficile, eh? Io salverei la cognizione, ovviamente. La cognizione perché l'ho messa per ultima, perché... No, perché la ricollego all'esperienza, non perché... Sì, dopo in realtà poi criticherò anche la questione della cognizione, però per il momento, sì, per il momento insomma, sono le prime due che sono, diciamo, a occhio, una comunicazione intraspecifica ricca, certo che è importante, forse è stata anche un fattore utile a livello evolutivo, però non sembra così centrale per il soggetto evolutivo, se non in maniera indiretta, e adesso vedremo come, se non in quanto è legata con il problema della tecnica. Allora, questa la lasciamo in sospeso. Potremmo chiaramente scartare la seconda, perché cioè, la funzione espressiva del linguaggio, se il linguaggio fosse eminentemente un qualcosa che ci serve per esprimere i nostri contenuti mentali ad un pubblico reale o anche ad un pubblico ipotetico, perché si può anche parlare da soli, senza essere totalmente scemi, insomma, si può fare. Si può anche parlare senza parlare, si può anche formulare, si può anche mettere insieme un pensiero senza dire le parole, no? Ma dicendocelo in testa, quando noi leggiamo un libro, non è che noi lettori moderni, il lettore medievale, no, leggeva ad alta voce o a bassa voce, ma non poteva leggere in silenzio. Tu quella di Sant'Agostino la sai già, quella di Sant'Ambrogio, ma forse anche tu la sai già, o tu non la sai, quindi te la dico a te. Sant'Agostino quando vive? E Sant'Ambrogio quando vivono, grosso modo. Io. 300 dopo Cristo, 500 dopo Cristo, 1000 dopo Cristo. Scegli. No, sono tanto che sentire Dario Quinto secolo. Quinto secolo, siamo nel quinto secolo, quindi siamo. L'impero romano è caduto da poco, siamo agli inizi del Medioevo. Sant'Agostino è un giovane. Che colore della pelle aveva Sant'Agostino, sai? Era africano. Era un negro. Maledetto negro. Ippona, un tunisino era, un tunisino, nell'attuale Tunisia. Allora viene a Milano e guarda il suo idolo è Sant'Ambrogio, che era molto di lui, era già famoso in tutta la cristianità, eccetera, e lo va a trovare, lui è un giovanotto, sarebbe diventato vescovo di Ippona, e sarebbe diventato quello che è diventato il più grande intellettuale della cristianità, sino dopo San Paolo e prima di San Tommaso, insomma, quindi uno importante, ma all'epoca era un giovanotto comunque. Ma va in causa e va a trovare Sant'Ambrogio, qua sta nella sua celletta, Sant'Ambrogio sta nella sua celletta, seduto Sant'Ambrogio e legge la Bibbia. E entra Sant'Agostino e vede Sant'Ambrogio e lui racconta nelle confessioni, che sarà la sua biografia, racconta di questo, l'emozione per la sua cosa, vede, però incontra. Lui aveva letto le opere, le omelie, le epistole, i trattati di Sant'Ambrogio, per lui era un mito, insomma. E vede che legge la cosa, e si stupisce grandemente Sant'Agostino e Sant'Ambrogio, perché vede che legge e non muove neanche le labbra. E dice, leggeva come se le parole gli risuonassero risuonassero dentro di lui, in corde suo, nel suo cuore. Ed è talmente stupito che lo scrive nella cosa. Perché è così stupito? Perché effettivamente per l'epoca questo è un modo assolutamente inusuale di leggere. Inusuale. La scrittura, che è stata a lungo, prima dell'invenzione della stampa, una tecnica accessibile a una minoranza della popolazione, ed era chiaramente collegata con, cioè si sapeva, era più chiaro allora di ora che la scrittura era la trascrizione di una parola orale. E allora la gente che leggeva, leggeva così. Mai fidarsi delle domande apparentemente banali degli scienziati in pausa pranzo. Forse non così perché era travato, ma almeno così. Mai fidarsi delle domande apparentemente banali degli scienziati in pausa pranzo, o perlomeno così. Mai fidarsi delle domande apparentemente banali degli scienziati in pausa pranzo. Era impossibile per la gente di quell'epoca leggere senza rifare in piccolo l'operazione da cui questa cosa sembrava essere partita. C'era qualcuno che aveva detto quelle parole. Adesso noi siamo abituati che le parole dei libri forse non le ha dette nessun altro, ma un tempo non era così. I primi libri scritti nella tradizione occidentale alfabetica, quali sono stati? Tu lo sai, perché tu anche ne sapevi. No. Le scritture, sapete grosso modo in che, le primissime scritture quando nascono, grosso modo. Babilonesi, sì, Sumeri, sì, Sumeri sono i primi, cioè quelli che vabbè. Contemporaneamente la scrittura nasce in tre zone del mondo diverse, una molto lontana, una molto diversa, che sono l'Egitto, la Babilonia, cioè insomma, l'attuale Iraq, la terra tra i due fiumi che all'epoca era abitata dai Sumeri, e in Cina, lungo le coste, lungo le rive del fiume Giallo, grosso modo all'incirca nel 3000 a.C. Però questi sistemi sono sistemi ideografici o pittografici, poi a poco si sviluppano dei sistemi sillabici, in Mesopotamia già poche centinaia di anni dopo la primissima scrittura, e sono sillabici, cioè le sillabe vengono, c'è un segno per ogni sillaba, che vuol dire che c'è una riduzione molto forte del numero di segni, diciamo necessari, perché nei sistemi pittografici ideografici c'è un segno per ogni parola, quindi per ogni parola dell'ipotetico dizionario di una lingua ha un simbolo a sé, sono decine di migliaia perlomeno, come minimo. Infatti ancora oggi un cinese ci mette 20 anni per imparare a scrivere in maniera decente, per imparare a scrivere quei 10.000, 20.000 caratteri che servono per una scrittura, e anche per imparare i 3.000, 4.000 che bastano per una scrittura minima, per leggere un po' i giornali, eccetera, non ci arrivano a 6 anni, insomma, ci vogliono almeno 12 o 13. I bambini, insomma, cinesi, anche quelli giapponesi in parte imparano a scrivere dopo di noi perché è più lungo. I sistemi sillabici rappresentano una grande cosa, e poi contemporaneamente nelle lingue semitiche si sviluppa invece un sistema per una serie di motivi particolari. Le lingue semitiche possono fare a meno di indicare le vocali nella loro scrittura, perché hanno un modo di ricostruirle, insomma, che non vi dico, sono un po' particolari. E quindi nelle lingue semitiche, per esempio fenici, ebrei, eccetera, eccetera, inventano dei sistemi di scrittura consonantici, in cui vengono, che è un passo avanti ulteriore come riduzione del numero rispetto alle sillabe. Queste parti qui non le ho fatte mai nella... Ora sì, adesso... Ah, cazzo, dai, vedi che le ho fatte nei corsi vecchi, cazzo, non è che... I greci prendono il sistema dei fenici, ma i greci parlano lingua indo-europea, quindi le lingue europee non funzionano come quelle di semitiche, per cui ci vogliono le vocali per forza. Allora hanno la grande invenzione, qualcuno, non si sa chi ha avuto una grande invenzione, qualcuno, varie persone probabilmente contemporaneamente, intorno al IX-VIII secolo avanti Cristo. Prendono alcuni segni dell'alfabeto fenicio, che non avevano l'equivalente fonetico nella lingua greca, quindi erano liberi, cioè, cosa me ne faccio? E questa è la grande genialità, li assegnano, dicono queste saranno le vocali. Quindi A, E, I, O, U e basta. Le sette vocali, le due semivocali che sono I, eccetera. Insomma, inventano l'alfabeto, lo inventano i greci. Le prime opere che noi, quindi prima dell'alfabeto, insomma, diciamo fra il decimo, perché c'era una scrittura precedente, ma poi era la scrittura micenea che era una scrittura invece ideografica, o forse in una, quella di Creta era sicuramente ideografica, poi quella micenea forse era in parte sillabica, ma insomma però si erano perse queste durante la grande crisi del 1300-1200 a.C., quando crollano gli imperi, insomma i regni micenei, Agamennone, quelli che hanno fatto la guerra di Troia, a un certo punto non si sa perché. C'è un periodo di interregno, poi arrivano i dori che invadono i veri indoeuropei, quelli che c'erano prima non erano indoeuropei, in Grecia, arrivano gli indoeuropei che sono i dori, invadono la Grecia e da lì in poi, e nel VII secolo, grosso modo, VIII secolo, questa nuova scrittura alfabetica si diffonde in tutte le città della Grecia. E le prime opere di cui noi abbiamo notizia che vengono scritte sono due opere orali, due opere che i rapsodi e gli aedi cantavano, recitavano a memoria, perché le sapevano a memoria, nelle varie cose, ed erano i due caposaldi due dei caposaldi del mito greco, cioè le storie collegate alla guerra di Troia, l'Iliade e l'Odissea. Queste sono le prime opere che noi abbiamo, ma sono opere di tipo un po' particolare, che ci è voluto un po' prima di capirlo. Sono veramente, quelle sono delle trascrizioni di opere orali, cioè sono robe che i cantastorie cominciavano prima della scrittura parlava la voce, poi probabilmente nel 600 e qualcosa Pisistrato, uno dei tiranni di Atene, un tiranno diciamo, di Atene, decide di istituire le grandi feste chiamate Panatenee, cioè le grandi feste in cui venivano festeggiati tutti gli dèi, se no prima c'era una festa per ogni dio, la festa di Atena, la festa di Zeus, no, perché era il capo, quindi lui c'era tutto, insomma. Allora dice, mettiamo tutto insieme e dice, vai, facciamo una roba, fa una cosa che non era mai successa prima, cioè chiama degli aedi e gli dice, adesso recitate tutto il ciclo della storia. Prima di allora probabilmente era difficile sentire recitata tutta l'Iliade, tutta l'Odissea, si danno dei pezzi, più o meno sempre quelli, perché ormai il testo era stato, come dire, stabilito, ma non perché era scritto da qualche parte, perché dicendolo generazione dopo, diciamo, generazione, c'era una, chiamiamola lezione, una versione più o meno stabile, con tante varianti poi ovviamente individuali, che però più o meno raccontavano quella storia lì, ma non era scritto da nessuna parte, no? Era la gente che ha a memoria il cantare. E allora invece Pisistrato dice, no, voglio che mettetemi insieme 10, 12, 20 aedi, quanti cazzo volete essere, quanti diavolo siete, e me la fate tutta l'Iliade però, dall'inizio, almeno tutta l'ira di Achille ci vuole, da quando Achille si arrabbia fino a quando alla morte di Ettore, la voglio recitare tutta insieme. La cosa di Odisseo, la storia di Odisseo, tutta la voglio, da quando cade Troia sino a quando lui torna a casa di Itaca. No, ma no, come facciamo? È difficile trovare. C'è questo modo che usano i mercanti per scrivere le cose. Scrivetele. Cioè. E allora probabilmente questo team di aedi, è una supposizione, non è che non c'è nessun documento scritto, insomma, è una delle cose più plausibili. Questo team di aedi che deve fare questa performance mai vista prima di allora, di recitare tutto il ciclo, tutti i poemi di Omero sulla guerra di Troia, se li scrivono per fare prima, ricordarsi, visto che c'è questa cosa, così almeno sappiamo se anche uno non scrive, c'è il testo lì, gli dai un'occhiata, poi la gente non si accorge, perché non sai, tanto poi non sanno neanche cos'è, perché la pergamena, vedrai che va bene così, e quindi noi abbiamo questi testi di Odissea. Gli Odissea non nascono come opere scritte. Idem la poesia lirica, prima del VII secolo la poesia lirica era la poesia lirica monodica, cioè quella fatta per una sola persona che doveva recitare, era o improvvisata o, nel caso di testi tipo Saffo, eccetera, erano mandati a memoria, la gente alla memoria, le poesie di Alcmeone, mi viene manco un nome di un lirico di quelli dei più antichi, adesso viene Tindaro, mi toglie il nome, accidentaccio, adesso faccio una figura, perché sta pure tutto registrato, accidenti. Va bene, insomma, queste robe qua. Le prime opere, quindi tutte le opere, diciamo, sia l'epica che la lirica, sia monodica credo che la lirica collettiva, insomma, erano forme di espressione orali. Invece diciamo, il nuovo genere, il genere nuovo che nasce con la scrittura, non c'è prima della scrittura, ad Atene in modo particolare, è il teatro. Il teatro è allora lì, perché nel teatro non c'è l'aedo, cioè non c'è il poeta che o si inventa lui il testo o tramanda un testo di altri, no, allora c'è l'attore. L'attore fa un altro lavoro, l'attore deve interpretare un personaggio, l'aedo non interpreta nessun personaggio, racconta in terza persona, racconta, dice, ah, o musa, ispirami, cantami, fai in modo che io possa cantare, possa raccontare l'ira di Achille quando Achille si arrabbiò e se ne andò via e si tolse dalla battaglia, e questo generò innumerevoli lutti ai greci, diva, o musa, ispirami, dammi le parole per raccontare quando egli litigò e quando morì il suo amico patro, quella cosa, tutte queste cose qua. Invece il teatro era, dice no, ci pigliamo l'idea, pigliamo delle robe che la gente già conosce, la storia del mito, anche lì le storie di Ercole, le storie di Eracle, le storie di Prometeo, le cose, e però mettiamole in scena, cioè facciamo uno che fa la parte di Prometeo, una roba che non si era mai vista prima, si racconta, fare la parte di, cosa vuol dire, cioè, rappresentazione, sempre, cioè, siamo sempre nella fiction, nasce la fiction, insomma. L'epica non è fiction, nel senso è uno che racconta delle cose che probabilmente loro tutti pensavano che fossero successe davvero, o che non gliene fregava se erano successe o no, ma insomma erano i racconti fondatori. Con l'epica non si riflette, l'epica sta lì, tu sei lì, c'è la Edo magari su una cassetta della frutta, cioè su un posto un po' più alto di te, che tu lo vedi, tutti intorno stanno a lui, l'Aedo parla e tu sei immerso in questo mondo, l'Aedo crea un mondo, tu dopo un po' non ti accorgi neanche più che sei lì e pensi di stare a Troia, pensi di dire... A teatro no, a teatro è tutto finto e si vede che è finto. A teatro c'è la gradinata semicircolare, c'è l'orchestra, sotto c'è l'emiciclo, c'è l'orchestra con il coro nella fossa, non sono strumenti musicali, ma è il coro, cioè un gruppo di persone che parla, poi c'è il palcoscenico, dei fondali, ci sono delle persone che entrano in scena con delle maschere sulla faccia di legno, con la faccia, con le fattezze del personaggio che devono interpretare, quindi se fanno Aiace sarà un guerriero con la faccia burbera, non mi capire, se è Clitennestra sarà una donna, se è Elettra sarà, però capito, dice ah, questo è uno, guarda, questo fa quella parte lì, so già chi è, perché... e con degli zoccoloni alti, tipo quelli che si usano adesso, tutta la suola, non solo con il tacco, no? Perché sono i coturni, quindi erano più alti, così vediamo, ma erano finti, è ovvio che era finto, allora, e questi mettono in scena la storia, Prometeo nell'unica tragedia che c'è rimasta della trilogia di Eschilo è già incatenato alle rupi del Caucaso. Allora si apre, diciamo, la scena e c'è prima il coro che dice, il coro racconta la storia di prima, il coro è una sorta di momento di collegamento con la vecchia epica, perché è, ogni tanto racconta delle cose, ma anche i singoli personaggi. Allora, lì va bene, all'inizio dice, ah, raccolo, cosa è successo? Ah, perché Prometeo ha rubato il fuoco a Zeus e ha illegalmente favorito gli uomini. Ah, quale terribile destino di capo. Infatti lo vedete qui adesso incatenato a quella rupe del Caucaso e deve, secondo me era un po' difficile fare i punti all'epoca, l'aquila, non è che si vedeva l'aquila che tutti i giorni andava e gli mangiava il fegato. Allora conta il coro, dice, tutti i giorni una terribile aquila inviata da Zeus il potente, Zeus colui che getta i fulmini, va, tutti i giorni arriva e gli rode orrendamente, gli fa uno squarcio, gli mangia il fegato, ma il fegato magicamente, perché Zeus così vuole, ricresce, e lo racconta tutto quello. Ma allora intanto vedete sto tipo con la faccia di Prometeo incatenato sulla scena alla rupe del Caucaso. E quindi non c'è l'aedo, non c'è l'incanto della parola, la parola da sola, l'aedo, e lì c'è pure una faccia da deficiente, però parla così bene, è capace così bene di incantare, la gente sta lì, guarda dagli occhi, si dimentica che è brutto, che è deficiente, che è un pezzo di cazzo, dice, ah, come era, e sta lì, e si oblia, il suono crea queste cose, Sitte McLuhan, non mi fate ripetere, sono vere, insomma, ovviamente. E il suono crea un cerchio magico che ti tira dentro, e che ti impedisce di avere tanta distanza critica. Non pensate, adesso è diverso, adesso anche quando parliamo, il suono non ce l'ha più questa cosa, per quanto uno sia bravo, per quanto uno sia Gassman, sia adesso non so, chi è un attore che vi piace particolarmente, che pensate che abbia, io faccio sempre degli esempi che dimostra che sono troppo vecchio, insomma, diciamo un attore di un attore non di cinema, perché il cinema è una roba staccata, è il teatro, vai a teatro e vedi uno che parla, insomma, che sia capace, insomma, in effetti gli ultimi grandi attori classici sono stati Gassman e l'altro, Albertazzi, Carmelo Bene era già. Uno va lì e il suono crea, ma non crea, cioè non fa più la stessa, sì, un po' sì, ma non tanto, perché noi siamo già abituati. Ci stai dicendo che a quello che hai detto prima, cioè stai ritornando a Sant'Agostino che sente le parole, sì, che non sono pronunciate, perché sente quello che. Dice, quindi, ma è anche Sant'Agostino che è diverso, non è solo certo, ecco, cioè, quindi è anche il pubblico che è diverso, è anche il pubblico che è diverso, non è solo l'attore, esatto. Cioè è il rapporto tra il pubblico e l'attore, certo. Siccome noi siamo abituati a leggere dei libri, quindi sappiamo che quando Albertazzi recitava o recita l'Amleto di Shakespeare, c'è un libro col testo di Shakespeare, io magari lo conosco, vado a teatro, ho già letto prima, oppure so che posso leggerlo, so che c'è un libro che è stampato nero, come dire, insomma, su bianco. Ora, questa cosa, per la prima volta, avvenne in Grecia nel VI-V secolo a teatro. Il teatro, proprio per il fatto che non era l'aedo che raccontava una storia, ma delle persone che impersonavano dei personaggi, già noti al pubblico, del mito, quindi il materiale era lo stesso della poesia epica, ma il modo di trattarlo era totalmente diverso. Il teatro è la prima forma d'arte che genera in qualche maniera una sorta di distacco critico. Certo, vado a vedere al teatro e dico quanto è bravo quello, eccetera, però distacco critico che consiste in che cosa? Allora, mentre la poesia epica è i poemi di Omero, che cosa sono? Sono una glorificazione delle origini del popolo greco, certo, e una sorta di enciclopedia conoscitiva. Nell'Iliade e nell'Odissea ci stanno tutte le cose che un greco deve sapere per comportarsi bene, per fare, sono delle sorte di enciclopedie o dei trattati di buone maniere, le poesie, la poesia epica. Pensate, è una cosa che noi dobbiamo ricostruire, ma per il greco di 2500 anni fa, era 1700 anche, era scontata. L'ascoltatore greco metteva spontaneamente a confronto il modo in cui Ulisse veniva accolto dai Feaci, dal re Alcino, Antino, non mi ricordo più come si chiama, il re dei, di Feaci, quello che è all'inizio del libro, cioè dopo i primi quattro libri che sono la Telemachia, il quinto canto dell'Odissea comincia con Ulisse che arriva nudo e tutto zozzo sulle rive del paese dei Feaci e scandalizza Nausicaa, no? Poi tutto quello che viene prima lo recupera lui con un flashback, perché è lui che racconta alla corte dei Feaci quello che gli è successo dalla caduta di Troia in poi. Sì. Allora, l'ascoltatore greco automaticamente confronta il comportamento cioè quello che succede quando arriva Odisseo nell'isola dei Feaci, o quando quello che succede quando arriva in Sicilia ed entra in contatto con Polifemo. Supponiamo che si chiami Alcino, questo re, non, mi sembra di sì, ma non mi ricordo bene, insomma, comunque, il re dei Feaci, Nausicaa, se la prima che lo vede è Nausicaa, che sta sulla piazza. Una bambina di 14 anni, è scandalizzatissima, avere uno con il pisello di fuori, tutto zozzo, tutto... Cosa fa? Vince la sua timidezza, la sua cosa, si avvicina e gli fa... straniero, se vuoi, dimmi di dargli da qualcosa per riscoprirsi, e lo porta alla corte. Quando arriva alla corte, il re dice, straniero, chiunque tu sia, adesso lavati perché sei un po' zozzo, fai un po' schifo, mangia qualcosa perché avrai fame, mi sa che sei venuto così, eccetera, poi dopo ci vediamo a cena dopo, gli faccio le cose, lo si lava, bla bla, con delle simpatiche servette, credo, se non mi ricordo male, che lo aiutano, tutte queste robe qua, e poi arriva a cena. Quando sono seduti a cena, dopo tutta questa roba, con l'Alcino che avrà pure parlato con Nausicaa, avrà pure capito, dice, vabbè, non ti preoccupare, gli uomini sono fatti così, bla bla, perché non si incaccia neanche per un bicchiere. Cioè, adesso, straniero, mo che siamo tranquilli, dimmi, se vuoi, come ti chiami, qual è il tuo nome e che cosa ti ha condotto qua. Quella è la, come dire, il modo in cui si devono accogliere gli ospiti. Non gli chiedi chi sei, che cazzo vuoi, non si fa come facciamo noi con gli extra comunitari di Lampedusa, no? Che appena arrivano, tanto dico, vabbè, quelli che sono sopravvissuti, un po' muoiono per fortuna durante il corso, no, arrivano troppi. Quelli sono arrivati, prima cosa, come diavolo ti chiami? E già non capisci quelle lingue diverse, poi ti chiudo lì, non gli offri nulla, non gli fai lavare, gli chiedi come diavolo si chiama e che cosa diavolo sono venuto a fare qua, come gli sono permessi di venire in Europa. Beh, ovviamente Ulisse è uno, se uno questi sono un po' di più, ma insomma, però le buone maniere sono sempre quelle, no? Allora viene, no, quindi non si chiede a uno come ti chiami, cosa fai, chi cosa sei, chi vuoi, no. La legge dell'ospitalità, c'è una particolare figura di Zeus, che è Zeus Xenios, lo Zeus degli stranieri, colui che protegge gli, diciamo, stranieri. I dei greci hanno molte, secondo me Zeus più di tutti perché è più importante, ha diversi aggettivi, c'è uno Zeus Xenios, c'è uno Zeus dei fulmini, cioè sono gli aspetti particolari. Ed è Zeus il dio che protegge direttamente gli stranieri. E per rispetto a Zeus Xenios, a Zeus che cioè, protegge gli stranieri, tu ti devi comportare in questo modo con gli stranieri. Li devi accogliere, li devi rifocillare, e solo dopo che li hai messi a loro agio, che stanno tranquilli su un piano, anche se soltanto formale, di parità con te, allora gli chiedi come si chiamano, cosa si usa, che storia hai, perché sennò che cosa vuoi qui, solo lo vuoi qui. Pensate che cosa ci succede quando va da Polifemo, ricordate, arrivano, sbarcano, trovano bisogno di questa grande grotta, Polifemo non c'è, entrano e non toccano nulla, curiosano, ma guarda, ma che formaggi grandi, ma che robe grandi, ma che strano, chissà chi ci abita, chissà. Arriva Polifemo, disgraziato, altissimo, dice, cosa fa? Polifemo, la prima cosa. Chi siete? Che fate qua? Che cosa volete? Si fa avanti Ulisse, dice, appena si va avanti Ulisse, fa, come ti chiami? Una cafonaggine incredibile. Cioè, ma si fa così? Non gli offre formaggino mio, niente, non gli offri niente, non gli dici niente. Un po' d'acqua, vuoi un po' d'acqua, vuoi qualcosina da bere? No! Come ti chiami? È Odisseo inganna Polisemo, sapete tutti che risposta gli dà. Odysseus, dice, non Odysseus, Odysseus, nessuno. Ma a ben donde, perché il primo che ha infranto le regole è stato Polifemo, che è un caffone mai visto, che è un disgraziato, infatti era un uomo, è uno spregiatore di Zeus Xenia. Questo è uno tra i tanti esempi che si possono fare. I poemi omerici sono dei grandi trattati etici, di morale, di pratica, anche di buone maniere, insomma, tutto quanto insieme. Certo, raccontano delle storie, ma sono... e creano l'identificazione. In teatro no, nel teatro tu la storia la sai già, anche con la Edola sai già, ma la funzione del teatro non è quella di creare identificazione e diciamo automaticamente costruire il senso di identità, diciamo, nazionale o locale. Indirettamente sì, ma direttamente no. È esattamente il contrario, è quello di produrre distanza critica, è quello di indurre lo spettatore, deve essere indotto dal teatro a una riflessione. Perché? E da come arriva? Perché c'è, dove sta il distacco? Più che nel, come sempre, più che nei contenuti, i contenuti sono uguali, sono quelli del mito, non cambiano, non sono storie nuove, no? C'è una sola di tutte le tragedie greche che ci sono arrivate, sono poche, naturalmente una sola è una tragedia a contenuto, a carattere storico, ed è I Persiani di Eschilo, che racconta in qualche maniera la storia delle guerre persiane che erano finite meno di 20-30 anni prima. Eschilo stesso aveva combattuto a Maratona, una delle battaglie dei greci con i persiani sul suolo greco. Quindi la storia la sai già, il solo fatto di vedere questa storia non raccontata da un'altra persona, ma messa in atto, to act, dicono gli inglesi, quindi enacted, messa in atto, rappresentata, messa in scena, e naturalmente all'interno del testo della tragedia ci sono tutta una serie di riflessioni che vanno oltre quelli della poesia epica. Nei poemi omerici non c'è nessuna riflessione, le cose vengono date per scontate così come sono, eh? Non è che i personaggi omerici non hanno, virgolette, interiorità, sono delle marionette. Achille è incazzato, piglia, si arrabbia, Agamennone è idem, cioè, e non è che Omero ci spiega mai le loro motivazioni, come dire, psicologiche, no, come si chiama, Agamennone fa, va bene, Apollo mi ha tolto la schiava, io te la piglio a te, Achille fa, mi tolto la schiava, io mi incazzo e non vado più in battaglia, poi gli ammazzano Patroclo e si incazza di nuovo, mi avete ammazzato Patroclo, allora torno in battaglia, sono tutte delle azioni, sono dei behavioristi, dei comportamentisti, cioè stimolo risposta, basta, non fanno altro. Odisseo idem, cioè Odisseo se ne sta 7 anni e mezzo a scoparsi Calipso, che è stata pure carina, insomma, però, cioè, no, Omero non ci dice mezza parola, dice, ma dove, perché fa così, dove, quali cose gli giravano per la... No, sta lì 7 anni e mezzo, noi non abbiamo la minima idea, non sappiamo, se fosse un romanzo moderno il recensore gli darebbe 4 meno a Omero, 3 e mezzo, perché non sa raccontare le storie in senso moderno, grazie all'anima, perché Omero è uno antico. Non c'è questa idea, perché non è la funzione. Al contrario, nel teatro greco, e tanto più quando il teatro greco va avanti, cioè meno in Eschilo, che è il più antico, un po' di più in Sofocle, moltissimo in Euripide, che è il più giovane ed è l'ultimo, quello che poi scrive durante ai tempi della guerra del Peloponneso, quando già Atene sta nel casino, eccetera, eccetera. Lì invece è pieno di digressioni interne, faccio un esempio, Aiace, l'Aiace di Sofocle, muore Achille, certo, quando prendono Troia, maschile, sapete che c'ha il calcagnino sifolo, cioè il disgraziato di Paride o chissà chi altro gli tira una freccia, lo ammazza, bisogna dare le armi di, a chi ha le armi di Achille, a chi vanno in eredità, e sarà Agamennone che dà, diciamo, le armi, no? E allora ci sono chi vuole queste armi, c'è una persona che vuole queste armi nel mondo perché è il più forte, dopo Achille è il più forte di tutti, è lui il più coraggioso, quello che ha fatto più di tutti dal punto di vista fisico per avere ritrovato, ed è Ajace. No, Ajace, cazzo, Ajace è convinto che Agamennone le armi le darà lui, dice, ma che Cristo, non c'è competizione, non c'è gara, non c'è battaglia, le armi ce le avrò io. A chi le ha dato il disgraziato di Agamennone, che faceva politica Agamennone, quindi le dà a Odisseo, le dà ad Ulisse. Certo che non è che sia più, però Ulisse non è il più forte di tutti, è il più astuto, è il più. Perché quello gliele dà come premio, perché è quello che ha fatto entrare la gente dentro Troia, è lui che ci ha inventato il cavallo, mica Ajace, che è una specie di culturista di Schwarzenegger gonfiato, ma non è. È stato, cioè, la politica è questa. E gli è stato, ovviamente Ajace si incazza talmente tanto che diventa pazzo, che impazzisce. Questo è il contenuto dell'Ajace di Sofocle. Adesso noi non abbiamo alcuna trattazione epica, perché nell'Odissea questa cosa non c'è, evidentemente Odissea parla di Ulisse, di Odisseo, quindi proviamoci se gli metteva la cosa di Ulisse. No? Però capiamo benissimo come la tratta Sofocle la cosa, sia nei monologhi di Ajace, sia nelle discussioni che Odisseo e Agamennone e poi Diomede, anche che c'è quattro personaggi che fanno anche, è pieno di ipotesi, idee sulle motivazioni interne che hanno spinto Ajace a fare, ma devi capire perché qui, tutte le robe che noi oggi diciamo che per noi sono scontate, perché siamo figli della scrittura e della modernità, eccetera, eccetera, ma per loro, per i greci non erano così. Quindi è una grande novità quella. Prendiamo un altro esempio, quindi o c'è questo scavo psicologico o c'è una utilizzo politico diverso da quello della cosa epica. Per esempio l'unica trilogia che ci è giunta integra delle tragedie greche è l'Orestea di Eschilo, che tratta della storia di Oreste, quindi Agamennone che torna a casa, la moglie che Clitennestra c'ha il ganso, che è Egisto, che è Egisto, ammazzano Agamennone. La figlia femmina Elettra è lì, stanca, cioè praticamente, quindi Egisto diventa il nuovo re, insomma, il re di acqua. Cassandra, inascoltata, che è la schiava, che si è portato Agamennone, cioè, tenta invano di dire guardate che le cose andranno male, quindi vanno male, questa è la prima tragedia. La seconda tragedia, Oreste, che è il figlio primogenito di Agamennone, stava fuori Argo, rientra in Argo sotto mentite spoglie, quindi travestito, perché in realtà cioè, cosa faccio? Non posso così, mia madre ha ammazzato mio padre, cosa devo fare? Devo in qualche maniera vendicare mio padre, ma se è mia madre cosa devo fare? Bla bla bla bla. Parlano con la sorella, con Elettra, e alla fine Oreste ammazza ovviamente sia il ganso che la mamma, qui Clitennestra, con l'aiuto della sorella Elettra. Dopodiché ovviamente scatta inevitabile la punizione divina, le tre dee cattivissime, le tre furie, le tre erinni, coloro che in particolare tormentano coloro che si sono macchiati di parricidio o di matricidio. Oreste è un matricida, ha ucciso sua madre, quindi è tormentato da queste tre dee, da queste tre erinni. E quindi Oreste, siamo con la morte di Clitennestra, si chiude la seconda tragedia che è le Coefore, e poi la terza che è le Eumenidi. Le Eumenidi racconta delle peregrinazioni di Oreste inseguito da queste tre dee, queste tre furie, le tre rinni tutte nere, cazzosissime, che non gli lasciano, non lo fanno dormire. Sto povero uomo è ridotto alla larva di se stesso, certo, va bene che ha ammazzato mamma, però io buono, sono ragazzi, cercate di capire. Alla fine, da Argo si rifugia in Atene. In Atene c'è il Consiglio dei Vecchi, l'Areopago, sulla collina dove poi sarebbe sorto il Partenone dopo, perché ovviamente lì si parla di prima, di quando, e diciamo, l'Areopago convoca Oreste, chiede diciamo asilo da queste furie alla città di Atene, che è la città fondata da Atena, quindi l'Areopago prende in esame questa domanda dell'asilo politico, insomma è uno che chiedeva asilo politico, no? Però allora chiama le tre rinni, dice beh, sono due ragazzi, riesce a trovare la conciliazione. Ovviamente Oreste costruirà un tempio per queste tre dee, cioè le tre dee smetteranno di tormentarlo e in cambio di questo avranno un grande culto in Atene e gli verrà cambiato il nome da Erinni, coloro che tormentano, a Eumenidi, coloro che sono benevoli. E quindi questo è, si finisce tutta la cosa. In tutta questa tragedia, questa trilogia, quello che conta non è la storia di Oreste, certo in parte anche il carattere, però c'è poco in Eschilo. Eschilo è uno scrittore arcaico, quindi è potentissimo, è una delle più belle, ci provò anche Pasolini a tradurla, che poi credo che ci fece anche qualcosa al cinema, no, perché ha fatto Medea, però insomma fece delle robe teatrali anche con questo. Ma la cosa fondamentale è la terza, diciamo, tragedia. L'Orestea di Eschilo è una glorificazione del ruolo civile della città di Atene all'interno del mondo greco. Guardate com'è importante Atene, guardate che all'inizio di Atene è una storia che non c'è in nessun'altra, è una cosa che si è inventata a Eschilo, questa idea che l'Areopago, cioè il vecchio consesso dei vecchi nobili di Atene, fa questa mediazione tra Oreste e l'Erinni, non è attestato in nessun'altra cosa che l'Erinni cambiano nome e si chiamano Eumenidi, sono tutte robe che si è inventato lui, ma ed è possibile farlo perché sta in una forma nuova, che è quella teatrale, che è quella del teatro. Quindi o c'è una riflessione, diciamo, di tipo psicologico sulle motivazioni interiori, interne, insomma a poco comincia a sorgere con il teatro greco, non con la lirica e non con l'epica, quella che poi nell'Occidente si chiamò interiorità. Che ovviamente è un'invenzione bella e buona, perché non esiste nessuna interiorità, non c'è nulla siamo tutti, però insomma funziona bene dal punto di vista dell'illusione della cosa, ed è lì che nasce. Quindi da un lato, diciamo, l'interiorità, i personaggi di queste opere di fiction diventano da delle semplici figure sociali che celebrano ciò che è eterno e ciò che è immutato e ciò che non deve cambiare mai. Alcino e Polifemo sono i due poli di due modi, uno giusto e uno sbagliato, di trattare la questione dell'ospitalità, e sono figure fisse, non possono cambiare, l'ospitalità è sempre uguale, bisogna sempre trattarli così. Odisseo è l'eroe eponimo, l'eroe rappresentativo è il rappresentante della categoria degli eroi astuti, quelli che hanno la metis, l'astuzia, l'intelligenza, non solo perché sono intelligenti, perché sanno le cose, ma perché sanno in pratica, sanno come comportarsi nelle situazioni imprevedibili, ma è sempre così, con uno schema mentale che è sempre quello. Odisseo è l'uomo della metis, punto, non glielo toglierete mai, magari si incazza, ammazza pure i proci con il grande arco, perché non devi tirare troppo la corda neanche con gli eroi della metis, oltre che con quelli della forza, per cui dopo un po' fanno cevò, insomma, questo è, però lui è comunque l'uomo della metis, l'uomo della intelligenza astuta e pratica. Nella tragedia non è così, nella tragedia e nella commedia greche La tragedia e la commedia che sono il luogo dell'integrità, quindi i personaggi diventano dotati di una integrità. Ma cosa vuol dire essere dotati di una integrità? Vuol dire essere personaggi che cambiano. E quindi Oreste, sia pure embrionalmente, nel lungo, non i tre perché nella prima non c'è, ma lungo la seconda e la terza delle tragedie dell'Orestea, che prende il nome, diciamo, da lui, cambia. L'Oreste che ammazza Clitennestra non è lo stesso Oreste che viene tormentato dalle furie nella terza cosa. L'Oreste è uno tormentato interiormente anche nella seconda, però alla fine si risolve, fa qualcosa, dice, vabbè, ammazzerò questa puttana che ha ammazzato papà, che è brutta, disgraziata, era pugnala. E così fa. In quel momento, in qualche modo, nella terza tragedia è una persona distrutta, è uno che non, capito, non dorme più, non fa, e quindi ed è porta dentro di sé una serie di dubbi anche su quello che ha fatto. Nessun personaggio dell'epica ha mai dubbi su quello che fa, nessun personaggio di Omero ha mai il minimo dubbio su quello che fa. Achille è convinto che ha fatto sempre bene, doveva far così, mi hanno mandato Patroclo e è andato a cagare tutti quanti, vi stermino, bastardi, e lì che c'è anche Ettore, si trascina nella polvere e gli fa di tutti i colori, è così, ma è perché è uno cattivo? No, perché il suo personaggio è questo, della così. Nella tragedia greca c'è il cambiamento nel personaggio, ma c'è anche il cambiamento nell'istituzione politica, cioè vi ho fatto l'esempio dell'Orestea, perché nell'Orestea ci sono queste due cose insieme, cioè c'è meno il personaggio, diciamo il cambiamento nei personaggi c'è molto di più in Euripide, che è quello, però c'è già anche un po' in Eschilo, però in maniera minore, ma per esempio in Eschilo c'è già un... Eschilo ci spiega, e la glorificazione che si fa a Eschilo ci racconta di Atene ai tempi del governo oligarchico, del governo degli aristocratici, ma poi quando alla fine il coro dell'Areopago, bizzarramente, quando nelle ultime battute della tragedia dice questo servirà perché Atene diventerà così, e parla del regime democratico di Atene, cioè, e qui hai questo paradosso dei vecchi nobili di Atene che descrivono il regime democratico che sarebbe stato, e però fanno vedere un sistema politico in evoluzione, cioè come cambiano le cose. Non ci sarebbe stato modo di cantare, di descrivere così bene il cambiamento se non ci fosse stato un genere letterario come il teatro, basato su una scrittura, cioè basato sul fatto che, guardate che è un paradosso, perché uno dice, ma come? Non c'è niente di più, di più fisso della scrittura. Io dico una cosa, la fisso su carta, accidentaccio, mentre la dico, poi posso anche cambiare, io spesso lo faccio, no? Mi correggo, se l'ho scritto su carta, accidentaccio, i miei libri non posso più correggere, gli accidenti, vorrei tanto adesso, ma non posso, li ho scritti tanti anni fa quando ero un cretinetto, e mo adesso li brucerei tutti, e non posso perché stanno lì stampati un po'. Dove sta il paradosso? Perché uno strumento di così radicale fissazione del pensiero su un supporto dovrebbe favorire invece il racconto della mutevolezza? È semplice, perché l'oralità mette insieme contemporaneamente ciò che la scrittura stacca, e cioè l'enunciazione, l'atto dell'enunciare, la cosa più mutevole che ci sia, no? Con la memoria. Come lo fa l'oralità? Lo fa in questo modo, in maniera potenziale. Cioè, per questo i popoli e le culture orali parlano molto meno di noi. Noi siamo una cultura della scrittura e chiacchieriamo e abusiamo della parola. Quando i primi etnografi, etnologi, i primi esploratori andarono a studiare le culture cosiddette primitive dei popoli della Polinesia, del Mato Grosso, dell'America, eccetera, si meravigliavano tutti, più o meno tutti, da Malinowski a Fierce, a Levi-Strauss, eccetera, di quanto poco parlassero. queste tribù, di quanto poco si parlasse in queste tribù. I popoli dell'oralità parlano poco, perché la parola parlata è l'unico strumento che hanno di trasmissione della cultura e quindi di fissazione di una storia e di una memoria. E quindi intanto loro sanno benissimo quando la parola detta, parlata, pronunciata è importante, cioè quando è degna di essere trasmessa e quando non lo è. Certo, ne dicono molte anche di parole, come ovvio che sia, le cose semplici di tutti i giorni, eccetera, eccetera, ma in qualche maniera la parola del popolo della oralità ha sempre dentro di sé potenzialmente una dimensione, oh occhio, hai detto questa cosa, bisogna ricordarsene, papà ha detto questo, è importante. Quando l'unico modo che hai di trasferire da una generazione all'altra la descrizione delle tecniche, come si ara un campo, come si costruisce un gomere, non c'è nessun manuale. I proverbi. È la costruzione dell'ethos, cioè dell'etica complessiva di una, come dire, società, esattamente i proverbi, le storie, le fiabe, eccetera, eccetera, te le racconti. Quando hai questo, la parola parlata è molto densa. Quando tu parli, dentro a questa parola parlata c'è contemporaneamente la dimensione transitoria, effimera, e la dimensione, quella che rimane invece. Noi che abbiamo il libro, sappiamo che il libro che cosa fa? Stacca le due cose. La parola che rimane è qua, è scritta, è, come dire, stampata. Attenzione, anche questi strumenti qui sono simili, apparentemente. Adesso, io perché sono un po' così, sono fatto così, qua ci sono, io sto parlando, di fronte a me ho un registratore, il quale registra tutto quello che io dico, e questa cosa dopodiché va su di un sito, tra domani o dopodomani, e tutti quelli che non hanno sentito questa lezione o che la vogliono risentire, eccetera, eccetera, vanno lì e se la pigliano. Sembrerebbe che siamo tornati all'oralità. In realtà il fatto che ci sia bisogno di un supporto tecnico, di uno strumento tecnico in qualche modo, di un supporto fisico, nel caso di un libro, delle cose che scrivono, di un tempera al nastro, di una memoria magnetica comunque in qualche modo, insomma digitale oggi, per indica che questa separazione c'è già stata, e quindi è per questo che l'uomo della scrittura intanto parla di più, chiacchiera di più, perché la parola parlata non ha più questa bella funzione forte, come dire, potente di trasmissione culturale, perché non serve più la parola parlata per trasmettere alcunché, o se trasmette qualche cosa è perché è duplicata su di un altro supporto che è diverso ma analogo a quello della pagina scritta, che è, come dire, la memoria, diciamo, digitale. E nello stesso modo ha cominciato ad operare il teatro, ecco perché quindi in qualche modo si può avere una come dire, si può condurre una indagine, si può parlare di, si può rendere degno di discorso ciò che accade dietro le quinte di una persona che parla, solo quando c'è un qualcosa di diverso, di più stabile della parola parlata, sulla quale allora quello che io dico è registrato sul registratore, o è scritto dentro un libro, se mai scriverò un libro su queste cose. A questo punto ciascuno di voi, o io stesso se voglio, in una ulteriore fase, una volta che ho salvato il contenuto, posso dire, vediamo adesso, chiacchieriamo un po', vediamo come stavo quel giorno, che stato d'animo avevo, che cosa pensavo davvero mentre parlavo di quelle cose, qual è stato il mio percorso, interiore che mi ha portato a... pensate bene, non c'è nessuna opera, non c'è nessun libro nella cultura classica paragonabile alle Confessioni di Sant'Agostino. E Sant'Agostino scrive anche prima della stampa, eccetera, ma Sant'Agostino inaugura un genere che poi ha avuto, da quando c'è la stampa, le autobiografie non si sono più contate. E Rousseau, e Alfieri, e Foscolo, e tutta una serie, tutti qua, e Kierkegaard, anche nella filosofia, Nietzsche e Kierkegaard hanno, a poco, hanno portato una dimensione autobiografica. l'autobiografia è ma il primo che ha inaugurato questo genere letterario è stato Agostino nel V secolo d.C., come dire, sviluppando una delle possibilità, una delle cose che erano insite dentro la scrittura. L'indagine sui retroscena, sul backstage, che cosa succede, chi è il personaggio che parla, non gliene fregava a quelli antichi di sapere, addirittura si inventavano gente che non esisteva, tipo Omero probabilmente non è mai esistito, chi l'ha scritto, dice Omero, ma in realtà erano, perché le culture orali sono culture in cui l'elaborazione del racconto e del mito è collettivo, quindi poi ci sono quelli più bravi di altri a raccontarle le storie, ma la storia non sono i miti veri, non i miti scritti, che è tutta un'altra cosa, ma i miti veri sono creazioni collettive di popoli e di culture che sono il distillato, c'è l'apporto di tutti più o meno, sono gruppi piccoli, certo, poche centinaia di persone, migliaia al massimo, ma funzionano da questo punto di vista. La scrittura, separando tutte queste, allora nella oralità è tutto fuso insieme e quindi, come dire, è implicita l'interiorità, tra mille virgolette, della Edo che parla. Da un lato non è così rilevante, dall'altro, per il solo fatto che io ascolto la sua voce, come voi potete ricavare qualche informazione o qualche ipotesi, se vi interessa, su come sono fatto io, non per le cose che dico, o non solo perché, ma per come le dico, per il tono di voce che ho, per il modo, per come gesticolo, insomma, per tutto quello che sta dentro a una comunicazione orale. E quindi, adesso poi però noi sappiamo, noi adesso parliamo di sopravvivenze di oralità, ma dentro un contesto dominato dalla scrittura, quindi, ma se la scrittura non ci fosse, tutta questa parte sarebbe esaltata da un lato, ma dall'altro non si sentirebbe neanche la necessità di renderla esplicita, perché è implicita nell'atto di comunicazione orale. Nell'atto di comunicazione orale ci sono già molte informazioni anche su quella che, ed è per questo che l'uomo dell'oralità non ha bisogno, non sente il bisogno, non ha la capacità di distinguere l'interiorità dall'esteriorità, diciamo l'interiore ce l'abbiamo noi, che invece abbiamo ipostatizzato, esteriorizzato almeno una parte, il contenuto di ciò che diciamo, più o meno il contenuto logico, storico, quello della storia, il racconto finzionale nel caso di opere di poesia, di opere di diciamo, narrativa, concettuale nel caso di opere di filosofia che riflettono su certe cose. Quindi nell'uomo della scrittura c'è la possibilità, non c'è alcuna possibilità di instaurare una riflessione autonoma sull'interiorità o sul cambiamento delle istituzioni o dei climi, eccetera, se non c'è la scrittura. Tutte le società orali sono più conservatrici di quelle della scrittura, perché non hanno, perché avendo questo unico strumento è chiaro che tendono a perpetuare le cose che si sono rivelate, questa si è rivelata buona perché è sopravvissuta ai secoli, se è arrivata sino a noi vuol dire che è cosa buona, ed è per questo che la tecnica in tutte queste società è il ritmo di rinnovamento della tecnica è così lento. Chissà quante volte è stata inventata la ruota, è stata buttata via perché che è sta diavoleria di fare le cose rotonde che girano, facciamo come se ne è fatto il nonno che tirava i tronchi per te, no, che sapore, cosa succede, la ruota si gira, ci fa sui piedi, no, diavoleria della terra, via, e butta via. Poi a poco, certo, una roba, dai, batti, ma però dopo un po', però ci vogliono centinaia di anni, anche migliaia, a volte, per rendersi conto che una cosa è più comoda, Cioè, sapete, l'altra grande invenzione, questo viene dopo l'agricoltura, insomma, già, che è il basto per gli animali, Il basto per gli animali, i finimenti. Voi pensate che siete così, mai stato così fin dall'inizio. All'inizio, prima di pensare che si poteva legare intorno alla pancia di un burro, di una cosa, poi gli tiri la roba dietro, come diavolo c'era le prime volte? Una bella corda al collo, un cappio, gliela fai passare sotto le zampe e gli attacchi l'arato dietro. Poi frusti, pungoli, il burro va avanti. Ovviamente il burro va avanti, fa un passo, due, al terzo passo, sì, perché fisicamente, muore, allora il contadino lo sa, mica sarà, no, deve togliere il vomere dalla terra, però potrei, fai meno di strozzarti, c'è disgraziato, non può, così. Va bene, e allora che tira il vomere, gli mette la cosa, andiamo, tre passi, e giù. Siamo avanti millenni così, millenni, all'epoca del il vasto nella agricoltura, diciamo, in Egitto e in Babilonia non c'era. In realtà in Egitto, però, soprattutto in Egitto non c'era neanche bisogno tanto di arare la terra, perché, insomma, ma neanche in altre zone. Cioè, è una roba che comincia a venire dopo almeno 1000 anni dopo l'invenzione della, insomma, scrittura, che c'è, ed è una roba, sembra l'uovo di Colombo, cioè, ma è una cosa così stupida, non c'è stato prima nessuno. Le staffe, ragazzi, le staffe. Perché per tutto l'alto Medioevo non c'è stata nessuna cavalleria pesante? Non c'era la cavalleria pesante. I greci e i romani, chi va a... cioè, non fanno le battaglie a piedi. Gli unici cavalieri che hanno sono i velites, senza armatura, armati o di leggerissimi giavellotti lance oppure con l'arco. Tirano l'arco, tirano la freccia da cavallo. Perché? Perché gli unici che hanno l'armatura sono gli opliti, i fanti, quelli che stanno a terra. L'armatura saranno 70 kg, 100 kg, che diavolo siano, bronzo, metallo, eccetera, eccetera, mettilo uno a cavallo sopra, lo metti a cavallo, il cavallo fa due passi, al terzo passo, quello per terra, tutto ammaccato, ovviamente, certo, non puoi fare, perché non si può fare la cosa. Quando Carlo Martello, allora lì le varie tecniche di combattimento hanno la loro cosa, per esempio gli arabi, hanno sempre sviluppato poche armature leggerissime, e quindi avevano molta più cavalleria che non in cosa occidentale. Quando c'era la battaglia di Poitiers, 830-840 d.C., quando Carlo Martello, non quello di Fabrizio di Andrea, quello vero, sconfigge gli arabi e vince la battaglia. Vince la battaglia e dice, però ci mette un po' prima di vincere, perché la vince con i suoi fanti, franchi, tutti i gol, però insomma la vince, perché sono più bravi, li accettano, eccetera, eccetera. Perché non riesce ad inseguire i cosi? Cioè, perché diciamo, gli arabi riescono ad andare in Spagna? Se Carlo Martello fosse riuscito ad inseguirli in quell'altro lì, avrebbe sterminato l'esercito tutto, e quindi probabilmente la storia sarebbe andata diversa da come è andata. Invece Carlo Martello vince la battaglia, quindi impedisce agli arabi di arrivare in Francia, cioè di occupare la Francia, e quindi la storia dell'Europa, diciamo, centrale è stata quella che è stata. Gli arabi cosa fanno? Semplicemente passano i Pirenei e se ne vanno in Spagna, e fanno stanno lì per quanti secoli? Dall'830 al 1408, quindi, ragazzi, cioè un bel po' di tempo, no? La Spagna è stata araba per secoli, secoli, secoli. Perché succede questo? Perché gli arabi hanno la cavalleria principalmente, che è molto veloce, e i franchi non hanno nessuna cavalleria, o ce l'hanno, ma sono troppo pochi, quindi la cavalleria non si creano. Hanno vinto la battaglia con i fanti, che sono ottimi nella guerra di posizione o nel corpo a corpo, ma non sono mobili, non possono inseguirli. Tre secoli dopo, sì e no, 1160 e rotti, battaglia di Hastings in Inghilterra, i normanni di Guglielmo il Conquistatore sbarcano e vincono la battaglia, e i sassoni vengono sconfitti, e quindi l'Inghilterra diventa anglosassone. Anglo vuol dire francese praticamente, perché i normanni sono di origine francese, erano un popolo celtico, ma dico celtico, poi non so cosa vuol dire, di origine francese. Perché Guglielmo il Conquistatore vince la battaglia di Hastings con meno uomini dei sassoni? Perché ha una cavalleria pesante, cosa che i sassoni non hanno, perché Guglielmo il Conquistatore ha utilizzato una recentissima invenzione, una cosa appena inventata, una bella roba sopra il cavallo, una specie di coperta, di che diavolo, una roba di cuoio, insomma, un sedile, dal sedile, bello allacciato sotto pancia, pendono due pendaglietti con due cappi di cose in cui arriva l'uomo a cavallo, l'uomo con l'armatura che pesa 200 kg, arriva, se riesce a issarsi, mette un piede in un cappio, un piede nell'altro, li chiamano staffe, queste due cose, e da quel momento in poi, anche se la vita riesce, lui non casca più come cascavano i suoi nonni. Ovviamente quando stai a cavallo a un'altezza di un metro e mezzo, due metri dal suolo, con una bella lancia lunga due metri e mezzo, sufficientemente appuntita, il povero Fante che sta lì sotto viene sbuzzato, trapassato, non gli mai tutti quello, passato allo spiedo praticamente, quindi ecco perché Guglielmo Conquistatore vince la battaglia di Hastings e la storia dell'Inghilterra è andata come è andata. Molto spesso le cose, nel periodo che intercorre tra la battaglia di Poitiers e la battaglia di Hastings, grosso modo comincia un'epoca di, in cui l'innovazione della tecnica è un po' più rapida, fino ad arrivare poi al 700 e all'800, per non parlare di oggi, in cui è non soltanto rapida ma addirittura frenetica ed è ricercata. Ma per la gran parte della storia dell'umanità la tecnica, l'innovazione tecnica non è stata ricercata, è stata, quando arriva arriva, e ha dovuto superare degli ostacoli molto simili a quelli dell'evoluzione naturale. I meccanismi culturali lasciati a se stessi non sono poi così diversi da quelli dell'evoluzione, diciamo, naturale. Sono un pochino più veloci, sì, certo, ma non poi così tanto. Cioè, è soltanto quando vengono spinti all'estremo che allora addirittura non solo diventano più veloci, ma proprio anche, diciamo, il meccanismo della finalità, cioè dell'intenzionalità, prende il sopravvento su quello della casualità dei, come dire, processi. E con questo abbiamo ricondotto addirittura ad unità questa bizzarra lezione di oggi, che ha spaziato su argomenti così diversi. Non avevo pensato di fare questa parte su oralità e scrittura, ma va bene così perché l'avrei comunque fatta dopo, quindi non ho detto delle cose che dovevo dirvi ma che vi dirò la prossima settimana. Va bene, okay, però di basta perché ve ne ho già sin troppe. Allora